l'oceano parte, che sole cucente, che confusione, fa impressione tutta sta gente. Ora dimandano informazioni, sogno confuso, benario primo, secondo, mi pare. Ancora un'ora da aspettare, sogno confuso! E ora mi mangio sto vociroso, che quasi quasi tornassi a casa. Manca a pensarlo, che sogno pazzo, torno paese ed è che falso. E la cambiale di fine mese, e chi li paga l'affitto e le spese? Pure la mia moglie sulla sola in tuo paese, c'è so mangio che può fare, viaticello di minestra ci può dare. Parto, parto, parto, lo ciavaglio ai acciuvari. E fresca l'oceano a chiano pensando, italiano, italiano, guardando. Ma faccio e svento un fazzoletto bianco e saluto, saluto, ma che saluto? A voi turista e ricchi villeggianti, a voi che vi godite l'adore, l'umare di la mia terra, a voi saluto turista e ricchi villeggianti. E lo treno cammina stanco e affollato, e ora frisca e fa una fermata nella materra, all'ultima fermata. E lo treno cammina, cammina, e ora si ferma una fermata nella materra, l'ultima fermata. E ancora gente e soli cucenti, e ancora genti e soli cucenti, e ancora genti e soli cucenti. Ora una voce si sente, ragazzi, ragazzi, state attenti, state attenti. Talio e chi vedo è quasi che non credo, non credo agli occhi miei e i preti che vanno in villeggiatura hanno riservata la sua vettura. E c'è anche la scritta. Andalo vagoni di le migranti, c'è una meschina che sta alla dita. Avanti, avanti, c'è lo vagoni di le migranti, e la meschina che poverella va lontano, si senti tinta. Per chi è incinta si senti male in talo vagoni di le migranti. Avanti, avanti, c'è lo vagoni di le migranti. Avanti, avanti, da questa parte gli emigranti. La vettura lì è riservata e c'è la scritta. E la meschina incinta sta la gita. E lo treno cammina stanco e affollato, con la vettura scritta e la meschina gita. Avanti, avanti, c'è lo vagone di le migranti. Avanti, avanti, c'è lo vagone di le migranti. Avanti, avanti, avanti, avanti, c'è lo vagone di le migranti. Avanti, avanti, avanti, c'è lo vagone di le migranti.